io credo che nessuno di noi si sente limitato o schedato quando per ottenere una carta di credito compila dei moduli e soprattutto si sottopone ad un filtro che è quello della propria banca e poi della società che gestisce questi dati, ed è un filtro di affidabilità dal punto di vista bancario, creditizio, nel senso che certamente la carta di credito non viene data a chi fabbrica segno a vuoto, a chi ha scoperti considerevoli, a chi non è abituato a onorare i propri impegni. Il meccanismo è lo stesso, cioè è lo stesso anche dal punto di vista tecnico, nel senso che questo documento ha un microchip, quindi è difficilmente manipolabile, a differenza di quello che purtroppo è accaduto qualche volta con i biglietti di accesso. Ha dei presupposti per essere rilasciato, cioè quello di non aver avuto problemi con la violenza sportiva, e dà, come la carta di credito, una serie di facilitazioni. Tutto qui, come ogni novità all'inizio sconvolge o comunque solleva delle perplessità, poi quando tutte le società si saranno messe a posto, nel senso che avranno superato qualche lentezza, ciò riguarda soltanto poche società in questo momento, e il sistema funzionerà a pieno regime, queste difficoltà, questi disagi iniziali saranno soltanto un ricordo e forse un passaggio necessario per la piena funzionalità del sistema.